poverito io sono, affranto io resto. Vorrei rivedere nel dolce far niente cosa io cerco, ma nulla mi resta, ma nulla mi resta. Non so cosa, non so chi, so solo Signore sognare di te. Sognare l'amore, non so cosa, non so chi, so solo Signore sognare di te, sognare l'amore del dolce mio amore. Chiuso mi sento e resto qui muto, non soffro per te neppure gioisco, cosa io sento, ma nulla mi resta, ma nulla mi resta. Non so cosa, non so chi, so solo Signore sognare di te, sognare l'amore. Non so cosa, non so chi, so solo Signore sognare di te, sognare l'amore del dolce mio amore, del dolce mio amore. Stendo per prender la mano che addita al mio cuore un respiro d'amore, un vento soave, un battere d'ali. Questo mi resta. So cosa e chi sei. Chi sei? Tu solo Signore sei tutto per me e sogno il tuo amore. Ora so cosa e chi sei. Chi sei? Tu solo Signore sei tutto per me. E sogno il tuo amore, il dolce tuo amore.